mondo di cristallo perché, a mio modo di vedere le cose, l'uomo moderno si è come rinchiuso in una sorta di bolla di sapone, e dentro questa bolla di sapone vive con delle regole inventate che si scontrano nel quotidiano con invece quelli che sono gli equilibri del mondo della natura. E questa bolla di sapone non permette neanche di far vedere quello che succede al di fuori, quindi noi non siamo più consapevoli di quelle che possono essere le conseguenze delle scelte che noi facciamo all'interno di una città, ad esempio. Certo, anche se in realtà, come dire, questo mondo di cristallo si sta un po' rompendo, almeno per quanto riguarda l'equilibrio. Veniamo da, a fare un esempio, nel nostro paese, un'estate con temperature sopra le medie, una siccità che non si era mai vista prima. Abbiamo compromesso il mondo in cui viviamo? Allora, il rischio è proprio quello, che effettivamente questo mondo di cristallo è anche molto fragile, in quanto noi viviamo all'interno di città inventate che però per vivere hanno bisogno di prendere risorse dall'esterno. Il rischio è proprio quello di compromettere in continuazione quello che invece è il mondo che ci ospita. Ecco quindi che anche le temperature che sono sempre più calde, ecco quindi gli ghiacciai che si stanno sciogliendo, ecco quindi quello che noi osserviamo, possono essere interpretati come dei segnali di allarme che ci fanno capire quale può essere lo stato di salute del nostro pianeta. Ecco, quali sono i settori, a suo avviso, in cui l'azione antropica è più devastante? Non è una domanda semplice. Certamente l'azione antropica è molto devastante in quella che è la perdita di biodiversità, in quanto le nostre azioni vanno a devastare delle aree e queste aree ospitano biodiversità che con le nostre azioni viene sempre a meno. Lo stato di salute dei mari non è ottimo, tant'è vero che noi già più o meno, questi sono dati recenti, verso il mese di marzo abbiamo finito di pescare tutto il pesce che nel mare Mediterraneo ci spetterebbe a noi come popolazione. Dopodiché si parla molto anche di cambiamenti climatici, e certamente qui, seppure qualcuno ancora purtroppo non è d'accordo, anche nei cambiamenti climatici lo zampino dell'uomo è più che evidente, tant'è vero che quasi sicuramente tutto quello che stiamo vedendo è frutto di anni e anni in cui l'uomo ha emesso in atmosfera grandi quantità di anidride carbonica. Quindi questi sicuramente sono dei settori in cui il nostro intervento è evidente, molto forte. Ecco, le diceva, qualcuno non è d'accordo sulla questione del cambiamento climatico, ovviamente abbiamo visto le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump che vuole uscire dall'accordo di Parigi, ma come dire, dobbiamo sempre demandare ai governi o abbiamo un ruolo anche in quanto cittadini? Assolutamente no, i governi devono fare la loro parte, ma bisogna avere chiaro che questa battaglia si può vincere soltanto se c'è la partecipazione di tutti. Quindi se noi prendiamo quelle che sono le emissioni in atmosfera di anidride carbonica e di altri gas serra che vengono emesse da una comunità, vediamo come una componente certamente legata alle emissioni dirette che vengono effettuate dall'ente pubblico, però la stragrande maggioranza viene emessa da quelli che sono i privati. Quindi questa battaglia si può vincere soltanto se c'è la partecipazione di tutti, a partire dai singoli cittadini che con le loro scelte, con le loro azioni devono assolutamente fare qualcosa, altrimenti la battaglia si perde. Nel suo lavoro usa molteplici linguaggi, da quello appunto naturale a quello filosofico, addirittura sociologico. Perché? Allora, questo mio nuovo lavoro ho voluto far presa più che altro su quello che è il linguaggio emozionale, quindi non proietto tanto dei numeri quanto invece delle riflessioni. Io inizio il libro con una parola chiave che secondo me dovremmo un po' riscoprire, ed è osservo, in quanto attraverso lo spirito di osservazione noi possiamo capire molte cose, possiamo anche renderci conto di quelli che sono i piccoli segnali che la terra, la natura ci manda. Certamente prima si parlava di cambiamento climatico, io potrei dire di quanto è aumentato in termini di gradi centigradi la temperatura nell'ultimo secolo, ma mi interessa molto di più che ognuno di noi, magari uscendo nel proprio paese, nella propria città, possa vedere quei piccoli segnali, come ad esempio l'anticipo delle fioriture, perché sono convinto che attraverso la percezione diretta una persona possa realmente meglio comprendere quello che sta succedendo e fare quindi anche delle azioni virtuose in tal senso. Dopodiché la mia è un'osservazione sia di tipo scientifico, ma un'osservazione certamente anche di tipo sociologico, in quanto sono convinto che le problematiche ambientali che noi oggi stiamo osservando sono il risultato di regole che l'uomo moderno ha costruito. Quindi tutto quello che noi stiamo osservando è il risultato di un nostro modo di vivere, il nostro modo di interpretare anche la società, e penso che le due cose devono per forza andare a braccetto.